solo per non rischiare. Quel giorno da inventare. Le cose cambiano se vuoi. All'improvviso intorno a noi vedrai che il sole non si è spento ancora. E troverai qualcosa che di buono forse adesso c'è, ma cambiano le cose. Quel giorno da